Perché la compartecipazione al gettito del gioco d'azzardo da parte delle regioni comporterebbe un passo indietro nella lotta contro la ludopatia? Perché nel momento in cui una regione o un ente locale dal gioco d'azzardo ne dovesse ricevere un beneficio economico in termini di entrate, nel 99% dei casi assisteremo a un indebolimento di questi soggetti nel contrasto della lotta all'azzardo. Ecco, per cui questa è la nostra preoccupazione, insomma, che attraverso questa, come dire, distribuzione di benefici economici in un momento difficile per le regioni e per i comuni, insomma, porterebbe il venir meno della lotta all'azzardo da parte di quei soggetti invece che in questi anni, a differenza del governo, hanno sostenuto una giusta battaglia. Quali sono i rischi principali che temete possano aggravarsi qualora le regioni accettassero di ricevere una quota degli introiti? Innanzitutto dal punto di vista del discorso pubblico, questa, adesso parliamo dell'Emilia-Romagna, insomma, è stata una regione che negli anni passati ha approvato una legge che provava a contrastare il fenomeno. L'anno scorso, quando abbiamo presentato l'annuale ricerca che facciamo sull'azzardo nella nostra regione, l'assessore Isabella Conti, insomma, si era impegnata a mantenere una posizione di contrarietà e aveva espresso, insomma, chiaramente qualche dissenso rispetto a questa compartecipazione da parte degli enti locali. Troviamo incomprensibile che oggi la Regione Emilia-Romagna, in sede di conferenza delle regioni, invece abbia modificato il proprio atteggiamento. Voi sapete dirci qualche dettaglio in più, cioè se sono più le regioni che sono a favore oppure il contrario? Sono maggior numero le regioni a favore della compartecipazione. La regione Emilia-Romagna era tra quelle regioni che invece, come dire, tenevano alta la bandiera della non compartecipazione. È rimasta la regione Toscana, insomma, a tenere alta questa bandiera. Però ci conforta il fatto che nei giorni scorsi, dopo che la notizia di questa richiesta che le conferenze delle regioni ha avanzato al governo, l'ANCI dell'Emilia-Romagna, cioè l'Associazione dei Comuni della nostra regione, ha espresso contrarietà, dicendo che i comuni dell'Emilia-Romagna non sono interessati a compartecipare a questo gettito. Insomma, noi auspichiamo che la regione Emilia-Romagna modifichi la propria posizione e riapra la discussione all'interno della conferenza delle regioni. A gennaio 2024, sempre a seguito di un'altra conferenza delle regioni e delle province autonome, era stata mossa anche all'epoca una richiesta da parte delle regioni di ricevere anche questa volta una quota dell'introito del gioco d'azzardo, solo che dopo quella conferenza ancora non se ne è fatto niente. Crede che adesso, dopo questa ulteriore richiesta, ci sia un nuovo stallo oppure c'è più possibilità che questa richiesta possa venire accolta? Io penso purtroppo che ci siano maggiori possibilità che questa richiesta venga accolta, nel senso che questo governo non sta facendo nulla per combattere il gioco d'azzardo, anzi, direi esattamente il contrario, per cui l'opportunità di coinvolgere e quindi zittire o ammutolire enti locali e regioni, o comunque questo, insomma, potrebbe essere l'obiettivo, temo che il governo non se lo farà fuggire. Naturalmente il governo dovrà rinunciare a una parte del gettito, ma forse politicamente potrebbe fare delle valutazioni sull'opportunità di questa operazione politica.